Abbiamo dinanzi un nuovo anno, un nuovo percorso, lo vogliamo vivere insieme in una prospettiva profetica e guidata da Dio. E quindi io voglio partire dal dare valore a quello che è un tempo nuovo, dare valore alle nostre giornate, perché il Signore nella sua parola ci invita a valorizzare i giorni, a valorizzare il tempo che ci è dato da vivere su questa terra. E c'è un salmo che andremo a leggere insieme che proprio parla dell'importanza di valorizzare ogni singolo giorno. E in queste settimane, proprio un po' ricercando e andando ad ascoltare diverse opinioni su come valorizzare il tempo, mi sono imbattuto in un ragazzo, in colui che ha fondato un'associazione che aiuta i ragazzi, che aiuta le nuove generazioni a utilizzare bene i dispositivi digitali. E quindi la sua presentazione mi è piaciuta talmente tanto che voglio condividerla. Era un TED Talk di Dino Ambrosi e lui mostrava queste diverse immagini. La prima che faccio proiettare è un'immagine che ci mostra il numero dei mesi che sono a disposizione mediamente in una prospettiva ottimistica. Questi sono i mesi che sono davanti a un giovane di 18 anni. Quanti giovani di 18 anni abbiamo qui? Quanti si sentono diciottenni? Bene, allora è per voi, fatelo vostro, ok? Evidentemente se non hai 18 anni quei cerchietti saranno minori. Non voglio deprimerti, ma voglio valorizzare il tempo che ti sta dinanzi. Nel caso mio si dimezzano, ok? E quindi in questa presentazione lui mostrava il numero dei mesi a disposizione di un ragazzo di 18 anni e poi la prossima slide mostra come questi mesi poi si riducono in tempo libero perché abbiamo del tempo che dedichiamo a dormire ed sono colorati in viola, no? La parte che è dedicata a dormire, e c'è chi occupa più spazio, chi meno spazio. Mia moglie ha meno palline occupate da quando ha Ioanna, che la sveglia ogni 3 ore. E poi ci sono le palline in verde che mostrano quello che è il tempo dedicato, 126 mesi dedicati allo studio e al lavoro. E poi ancora i pallini rossi, possiamo andare avanti, o meglio arancioni, mostrano il tempo che passiamo in macchina. Pensate un po', 18 mesi del nostro tempo è passato in macchina. E poi ancora in rosso a cucinare e a mangiare. Questa è una presentazione fatta da un americano, quindi non proprio queste palline rosse, nel caso nostro proprio sono sballate, perché noi il tempo che passiamo a cucinare, a mangiare, è sicuramente il doppio di quello che dedicano gli americani. E poi ci sono i pallini gialli che sono le pulizie o i lavoretti in casa, i pallini blu che sono il tempo che passiamo al bagno. Mia moglie mi ha criticato recentemente perché secondo lei passo troppo tempo nel bagno e mi invidia perché vorrebbe avere più tempo per farsi una doccia e quindi avere tregua e dedicarsi del tempo. È bello poter passare del tempo in bagno, soprattutto se poi lo dedichi alla lettura e non a guardarti continuamente nello specchio, ok? Poi abbiamo ancora i pallini che rimangono bianchi, sono il tempo libero. Il tempo che abbiamo a disposizione, ragazzi, diciottenni, questo è tutto il tempo libero che vi rimane. Over 18 ne avete un po' meno, ma avete del tempo a disposizione. Oltre il lavoro, oltre gli impegni ai quali non potete dire no, c'è del tempo a vostra disposizione che vi è dato di amministrare. Ed è qui che voglio arrivare, perché il Signore dà a noi del tempo e ci responsabilizza ad amministrarlo molto bene. La tendenza dei giovani di oggi, delle nuove generazioni, per le statistiche e per gli studi e le ricerche fatte, dimostrano che di questo tempo, dei 334 mesi che voi vedete in pallini bianchi, ben 312 mesi verranno spesi, sprecati davanti ad uno schermo. Intrattenuti davanti a una serie televisiva, o più di una ovviamente, davanti ai social, davanti a Instagram, davanti a Twitter. Il tempo vola davanti ai nostri dispositivi digitali e non ci rendiamo conto che sprechiamo il nostro tempo e ce ne rimane ben poco a disposizione per nutrire passioni, talenti, servizio a Dio, il destino che il Signore ha per noi. Il Salmo che vi anticipavo che avrei letto, il Salmo 90, versetto 12, che dice: insegnaci, una preghiera. È una preghiera che dice: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Che sia questa la nostra preghiera, ad inizio di questo nuovo anno, che il Signore possa insegnarci a contare bene i nostri giorni, a valorizzare il tempo a nostra disposizione, perché quello che faremo col tempo che abbiamo a disposizione determinerà il nostro futuro, determinerà il futuro delle generazioni che ci seguono, i nostri figli, le nostre famiglie, determineranno i nostri matrimoni, determineranno la differenza che faremo in questa nazione, Dio volendo nelle nazioni. E posso ricordarti questo: tu sei nato per dare un significativo apporto in questa nazione. Tu sei nato per fare la storia, tu sei nato per cambiare la storia, tu sei nato per essere luce in un mondo di tenebre. E il maligno è in agguato per rubarti tempo, perché il tempo a tua disposizione è ciò di cui Dio si vuole servire per portare cambiamento e luce e guarigione e liberazione e salvezza tutto attorno a te. La mia domanda questa mattina è: cosa ne farai del 2024? Cosa ne farò del 2024? Signore, insegnami a contare bene ogni mio giorno, a valorizzare, a strappare dal maligno quel tempo che vuole derubarmi per riscattarlo a favore del tuo regno, della tua gloria. Amen. Ti unisci a questa preghiera con me? Amen, amen. Questo è quello che noi vogliamo. E io voglio parlare di un anno fruttuoso, perché il Signore vuole darti un anno fruttuoso. Ricevi questa confessione per la tua vita. Dio vuole darti un anno fruttuoso. Perché Gesù è colui che è venuto e ha detto: io sono venuto per darvi vita e vita in abbondanza, Giovanni 10. E Gesù è colui che dice in Giovanni 15 che noi siamo tralci innestati nella vite e il nostro destino è quello di portare non solo frutto, ma molto frutto. Il Signore dalla tua parte, colui che ti ama, colui che ti ha salvato, colui che ti ha riscattato da una vita persa, lui è colui che fa il tifo per te e vuole che tu abbia un anno fruttuoso. Non devi chiederglielo, non devi inginocchiarti e pregare, dire: Signore, per piacere, volgi il tuo sguardo verso di me, abbi misericordia nei miei confronti e per piacere fammi vivere un anno fruttuoso. No, il Signore già vuole farlo. Già ha stabilito che tu possa vivere un anno fruttuoso. Devi solo cogliere questa possibilità. Devi afferrare questa opportunità che il Signore ti dà di vivere un anno fruttuoso. E oggi cogli questa possibilità. Oggi, prima domenica dell'anno, come Chiesa, insieme, ci orientiamo secondo quella che è la guida della parola di Dio per avere un anno fruttuoso. Siete con me? È bello che siete con me, lo sai. Sapete, perché già essere qui, la tua scelta di essere venuto qui questa mattina, ti proietta verso un destino fruttuoso. Se non fossi qui non ascolteresti queste parole, non esamineresti il tuo tempo a disposizione, non leggeresti la Bibbia con me, non valuteresti quello che è il piano che Dio ha per la sua Chiesa, per la nostra famiglia spirituale, e perderesti l'opportunità di essere orientato. Ma sei qui, gloria a Dio, sei qui e mi stai ascoltando, e sei qui per una ragione: perché Dio ti ha spinto a essere parte di una Chiesa che vuole essere ben orientata nei piani che Dio ha stabilito per essa. E c'è una cosa bellissima che Gesù fa nei confronti dei discepoli che erano lì e rassettavano le reti. Li chiama e dice: seguitemi, seguitemi, imperativo, seguitemi, e io vi farò pescatori di uomini. Da da quella che era una condizione ordinaria, pescatore di pesci, in quello che era un giorno ordinario. Gesù si presenta per dare voce a una verità profetica per le loro vite e chiamarle ad un destino glorioso, non più pescatori di pesci, non più solo pescatori di pesci, ma pescatori di uomini. Non sapevano neanche che cosa volesse dire, ma era attraente come invito. E infatti hanno lasciato tutto e hanno seguito Gesù. La scelta migliore che tu puoi fare per l'anno 2024 è seguire Gesù. Amen. Non c'è niente è meglio di Gesù. Non c'è niente, nessun'altra scelta che sia migliore dello scegliere di seguire Gesù. Però c'è seguire. Vi ricordate che la folla a un certo punto è stata criticata da Gesù? Perché Gesù ha detto: voi mi cercate perché in realtà vi ho dato da mangiare. Mi seguite perché io vi ho sfamato, vi ho dato dei pani e dei pesci. Questa non è la giusta ragione. Se tu segui Gesù, se tu vai dietro a Gesù per ricevere, questo è fine a se stesso. Ora Dio è generoso, Dio è misericordioso e io non so come fa, con alcuni di voi in modo particolare, che mi vengono proprio nomi e facce, ma è per primo, a sopportarci per il nostro egocentrismo ed egoismo. Non è vero forse che noi cerchiamo Dio molto più spesso per ricevere qualcosa da Lui, piuttosto che per dare la nostra vita e dire a Lui: noi vogliamo seguirti ad ogni costo, fai di noi quello che tu vuoi. Ma Gesù vuole che noi seguiamo Lui in questa maniera. Infatti in Luca, capitolo 9, questi versi li conoscete molto bene, dice Gesù, diceva a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso. Se uno vuole seguirmi, Gesù sta dicendo, se uno vuole avere una vita orientata, un destino di vita straordinario, vuole fare la differenza, vuole fare la storia, vuole dare significato alla sua vita terrena, rinuncia a se stesso. Rinunci a se stesso. Non pane, non pesce, non prendi, dammi, Signore, ma lasciare, rinunciare. E noi ci troviamo come credenti ad essere spinti da due forze: la spinta dell'invito di Gesù e la spinta del mio io, del tuo io, che ci invita a fare scelte che sono le nostre scelte autonome, le nostre scelte, le nostre vie, come Ludovico diceva nel tempo di lode, guidato profeticamente. Siamo così inclini a guidare le nostre vite secondo la nostra mente, il nostro discernimento. Il Signore invece vuole che noi lasciamo il nostro io per seguire Dio. Siamo spinti da due forze. Posso illustrarvi questa cosa? Davide, vuoi venire qui sul palco? Sei bellissimo. E Raffaele, vuoi venire tu sul palco? Ti faccio fare Gesù, è una buona parte. Ok? Davide, sei bellissimo, per questo ti chiamo, e anche perché ti sei messo in prima fila, però è proprio bello, perché la tua scelta di essere in prima fila è proprio questa, decidere di fare la differenza. E io voglio invitare come chiesa tutti voi, so che il gruppo Lode è in ultima fila perché è una, però vieni in prima fila, sii in prima fila nel regno di Dio, fai la differenza come Davide. Davide simboleggia noi e Raffaele, ho detto che ti avrei fatto fare una bella figura, sei Gesù, ok? Gesù ci vuole prendere per mano e quindi prendi per mano Davide e vuole accompagnarci gentilmente, con tanto amore, nelle vie che lui ha stabilito per noi. E potete sforzarvi di fare una passeggiata perché c'è l'io che spinge. Avete mai avuto a che fare con quelle persone che quando parlano sono insistenti, no? Vogliono proprio parlare, vogliono la tua attenzione e ti girano la faccia, no? Perché ti devono dire una cosa, ti devono dire, e così è il nostro io è presente, è assillante, vuole parlare e vuole farsi sentire di più, ed è, oh, è forte sto Gesù, è forte proprio sto Gesù, e quindi spesso vince l'io, fai vincere un po' l'io, non mi far venire un'ernia. E vince l'io, ed è l'io che ci trascina, povero Davide. Poi preghiamo per te, tranquillo, per la schiena, per le braccia. E l'io molto spesso vince, perché è assillante, perché è prepotente. Grazie, possiamo fare un applauso allora. Spero vi rimanga questa illustrazione. Non smette di cercare attenzioni l'io, non smette di dire la sua l'io, non smette di essere così ingombrante ogni giorno, di mettere io al centro, io e la società che ci circonda ci propina la bugia straordinaria, enorme, invadente, così di cui tutti sono pieni, che se trovi soddisfazione in te stesso avrai gioia, avrai felicità. Ma tu credi che il tuo Dio, colui che dice che vuole darti una vita abbondante, colui che è venuto e si è sacrificato per te, che ti dà accesso alla vita eterna, tutte le promesse di guarigione, di vittoria, di prospettiva, di proiezione e di proposito di vita, quel Dio che ti ama così tanto ti voglia spingere in una vita infelice, misera e senza significato? Scegli di seguire Gesù. E per farlo, il mio punto primo e principale, ed è il titolo anche della visione di quest'anno che porteremo avanti, predicherò per tutto il mese di gennaio, mi dovrete sopportare per tutto il mese di gennaio, sarò assillante. Il tema di quest'anno è tu. Non io. Il messaggio di questa mattina è molto incentrato sul non io. E il mio punto è questo. Quello che Gesù ci presenta è una possibilità che non prevede l'avere l'io e avere lui. E come dicono i latini, un equatio sine qua non. La conoscete questa? Che significa che una cosa esclude l'altra. Se tu vuoi Gesù, devi rinunciare all'io. Non puoi avere Gesù e l'io, non andrai da nessuna parte. Se uno vuole seguirmi, dice Gesù, se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso. Possiamo anche dire che nella proporzione con cui sei disposto a rinunciare al tuo io, a dire non io, non io, tu potrai sperimentare guida divina, destino divino e la presenza di Cristo Gesù nelle tue giornate. Questo è quello che io voglio incoraggiare tutti noi a fare. E so che mi sto rivolgendo a un numero di persone che per la maggioranza mi sta guardando dicendo: ma io ho già scelto questo. Forse stai pensando: il pastore sta predicando questa cosa a chi ancora non ha scelto di rinunciare a se stesso per seguire Gesù. Ma in realtà questa è una decisione che vale per tutti noi. So che sei battezzato e col battesimo noi non facciamo altro che dire: moriamo alla vecchia vita, all'indipendenza, a una vita secondo l'io, secondo quello che sono i miei desideri carnali, quella che è la mia scelta di ribellione, di distanza rispetto a Dio, per risorgere, emergiamo dal l'acqua per dire: ora appartengo a Cristo, farò quello che Cristo vuole, seguirò Lui. O come dice l'apostolo Paolo in maniera bellissima in Galati 2: sono stato crocifisso con Cristo. Io credo che molti di noi lo possono dire: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Amen. È quello che io e tu abbiamo deciso nel battesimo. Però andiamo avanti nella lettura di Luca 9. Perché vedete, Gesù dice: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno. Non so quanto accento tu abbia mai dato a questo ogni giorno nell'invito che Gesù fa ai suoi discepoli. Perché non è secondario. Troppo spesso leggiamo queste parole velocemente, no? Pensiamo subito alla rinuncia, al prendere la croce che era un attrezzo di tortura, quindi rinunciare alla propria vita, a essere disposti al sacrificio di morte, ma non ci rendiamo conto che Gesù quello che ha detto non è solo stato un invito che valeva per un giorno, per quel battesimo, per quella immersione, ma è una scelta che se vuoi vivere efficacemente deve rinnovarsi ogni singolo giorno. Vuoi vivere un anno significativo? Non è questa domenica che lo renderà significativo. È il tuo domani che lo renderà significativo. È il tuo martedì, è il tuo mercoledì, è il tuo giovedì, è il tuo venerdì, è il tuo sabato. È la tua domenica scegliendo di dare priorità alla Chiesa per venire in una condizione non solo di ricevere, ma per dare. Il tuo scegliere di appartenere a una Chiesa, il tuo scegliere di essere dedicato alla vita di Chiesa, il tuo scegliere di rinunciare a tutto ciò che può essere attraente e che ti può spingere, facendoti credere che sarai più felice nell'assecondare quella voce, e piuttosto invece sacrificarti e rinunciare. Quella domenica, sì, quella domenica che ti ricorda le tante domeniche che sei venuto, dici, ma in quelle altre domeniche non è successo niente, perché dovrei questa domenica venire, visto che ne sto poco bene, non tanto me la sento? O è più attraente una tazza di caffè, il secondo, il terzo caffè, il tè? Io non sto accusando e giudicando coloro che ci seguono da casa. Dio vi benedica e possa arrivare questo messaggio anche a voi, ma prendi una scelta di appartenere, di essere dedicato, di riscattare ogni giorno a partire dalla domenica. Sapete che domenica era il primo giorno della settimana? Per noi è diventato l'ultimo, ma per la Chiesa primitiva era il primo giorno. E capite il significato che questo aveva? Per i discepoli di Cristo, per i seguaci della via, era la prima cosa, la Chiesa, Cristo, la parola, la comunione fraterna, la preghiera, il dare, il servire, la prima cosa che mi proietterà verso il resto della mia settimana. Per poi continuare a vivere questo, addirittura negli Atti degli Apostoli leggiamo che i primi che si sono convertiti andavano assidui e costanti al Tempio e ogni giorno vivevano la comunione fraterna. Alcuni di voi stanno vedendo la Chiesa come un intrattenimento simile a quello del cinema. Il cinema sì ti offre un'esperienza migliore, però puoi vedere anche il film da casa. E allora dici, sì, ma io a casa faccio il mio culto domestico, prego con la mia famiglia, leggo la Bibbia insieme, ma il Signore ti ha chiamato a far parte di una chiesa, e se non credi questo, vienimelo a dire, perché io non leggo un'altra verità se non questa nella Bibbia. Se tu nella Bibbia leggi che sei escluso e hai la possibilità di rinunciare all'incontro domenicale, alla vita di chiesa, al servire, mostramelo. Mostrami dove è scritto. Ma se è scritto come io so che è scritto, nel tuo non fare quello che c'è scritto, tu stai attirando nella tua vita delle cose che non vengono da Dio, ma vengono dall'io. E l'io ti sta trascinando in una vita più misera, quando invece il Signore ti vuole arricchire. Scegli per la tua domenica, primo giorno della settimana, Dio, e poi sceglilo per ogni altro giorno. Questo farà la differenza. Gesù dice, se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio, la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Quando si parla di rinuncia, quando si parla di morire a noi stessi, quando si parla della croce, molto spesso si pensa che c'è un prezzo da pagare, un sacrificio che in termini economici non porta a nulla, quando invece Gesù presenta questa scelta proprio in termini economici. Invece non è che è solo una buona scelta, è un investimento. Io non so se sai come funziona un investimento. Ma l'investimento è molto semplice, tu metti dei soldi in in quello che può essere delle azioni o possono essere delle aziende che sicuramente frutteranno. Purtroppo non si può avere questa certezza, se no saremo tutti ricchi, quindi è un investimento incerto quello della borsa, però uno scommette su un'azienda, scommette su delle azioni e poi quell'investimento iniziale si moltiplica, perché l'azione va bene, perché l'azienda va bene. Ora il Signore ci promette che noi guadagniamo più di tutto il mondo se mettiamo la nostra vita nelle sue mani. Sta dicendo, tu puoi arrivare, seguendo il tuo io, i tuoi desideri carnali, i desideri materiali, ad ottenere pure tutto il mondo. Però perderai la cosa più importante. La tua vita andrà in rovina. Avrai sprecato il tuo tempo. E questo chiaramente lo mette in proiezione eterna. Ed è per questo che tutti i primi discepoli, tutti martiri, tutti disposti a morire. Sapete quanti cristiani, quanti nostri fratelli e sorelle sono morte nel 2023 per la causa di Cristo? Voglio leggere il numero esatto, non voglio essere vago in questo. 5.621 fratelli e sorelle nostre sono morte per la causa di Cristo, morti attestate, certificate, morti sicure per martirio, per la loro scelta di seguire Gesù. E sapete, queste 5.621 persone morte l'anno scorso, cosa stanno gridando alla Chiesa oggi? Ne vale la pena, ne vale la pena, è l'investimento migliore. Lo rifaremmo, perché ora sono davanti alla gloria del Padre. E hanno fatto una scelta, martirio significa testimonianza, che dà testimonianza. E persone vengono a conversione per i martiri, per coloro che scelgono di morire fisicamente. Ma la testimonianza efficace mia e tua sta nel nostro morire ogni giorno, essere disposti a prendere quella croce. Ed è così che investi bene la tua vita, ed è così che il Signore permette alla tua vita di essere illuminata, della possibilità di portare luce ad altri, salvezza ad altri. Se tu sei nel gioco e nella morsa dell'io e del Dio e sei ancora in quella pressione dove non sai dove stai andando perché sei trascinato ora da Cristo, ora da te stesso, non sei di buona testimonianza. E questa è una privazione al mondo intero. Dio vuole che tu possa portare il profumo suo ovunque vai, disposti a morire, disposti a perdere la faccia, disposti ad essere criticati, disposti ad essere giudicati, disposti ad essere emarginati, disposti ad essere scherniti. Perché? Perché c'è un bene maggiore, c'è un guadagno superiore e c'è una gloria meravigliosa nell'offrire le nostre vite quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Cristo, come è scritto in Romani 12. Quindi, per esserci un tu, deve annullarsi un io. Le due cose non possono andare di pari passo. E se vuoi sperimentare Cristo pienamente, deve essere una tua scelta quotidiana. Io voglio concludere con quello che è una preghiera di dedicazione, una preghiera che John Wesley ha scritto. John Wesley è stato un uomo di cui Dio si è servito per portare migliaia di persone a conversione. Era un evangelista, un pastore, un rivoluzionario, un uomo arreso completamente alla volontà di Dio. E la sua scelta, guidata da quella che era l'influenza dei puritani, un movimento, ha portato a fare questa preghiera per se stessa e poi a condividere questa preghiera alla chiesa che lui guidava. E lo ha fatto proprio la prima domenica dell'anno 1716, se non ricordo male. E da quella prima domenica, questa chiesa e le tante chiese che lui ha fondato, ogni prima domenica dell'anno ripetono questa preghiera. È una preghiera di dedicazione, è una preghiera di arresa, è una preghiera che proietta la Chiesa, e vorrei proiettasse la nostra Chiesa, ad una vita seguendo Cristo autenticamente, essendo seguaci della vita, della via. Ve la leggo. Non sono più mio, ma tuo. Disponimi secondo la tua volontà. Occupami con chi vuoi. Mettimi all'opera. Portami al sacrificio. Impiegami o mettimi da parte per te. Esaltami per te o umiliami per te. Fa che io sia pieno, fa che io sia vuoto, fa che io abbia tutte le cose, fa che io non abbia nulla. Liberamente, di vero cuore, offro tutte le cose, secondo il tuo piacere e le tue disposizioni. E ora, o glorioso e benedetto Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, tu sei mio e io sono tuo. Così sia. E il patto che ho fatto sulla terra sia ratificato in cielo. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Vorrei guidarci a pregare questa preghiera. Ve l'ho già letta, quindi sapete, no, che peso ha. E non dovremmo mai fare una preghiera con leggerezza, dire delle parole con leggerezza al nostro Dio. Prendere un impegno con Lui superficialmente. Quindi sei libero di non ripetere questa preghiera. Ma se questa mattina dici: io davvero voglio scegliere di rinunciare a tutto oggi, perché oggi ho a disposizione. Puoi ripetere questa cosa domani, se Dio mi darà un domani. E poi dopodomani, se Dio mi darà un dopodomani. Io voglio rinunciare a me stesso e rimettere tutto nelle sue mani. Se desideri questo, ripeti con me ad alta voce: non sono più mio, ma tuo. Disponimi secondo la tua volontà. Occupami con chi vuoi. Mettimi all'opera. Portami al sacrificio. Impiegami o mettimi da parte per te. Esaltami per te. O umiliami per te. Fa che io sia pieno. Fa che io sia vuoto. Fa che io abbia tutte le cose. Fa che io non abbia nulla. Liberamente, di vero cuore, offro tutte le cose, secondo il tuo piacere e le tue disposizioni. E ora, o glorioso e benedetto Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, tu sei mio e io sono tuo. Così sia. E il patto che ho fatto sulla terra sia ratificato in cielo. Amen. Amen. Vogliamo rimanere alla presenza di Dio in preghiera.